Allora, sì, per inquadrarvi perché mi occupo di dati nel mio lavoro più che altro, non per raccontarvi quello che faccio. Principalmente lavoro come giornalista, al momento sto collaborando con Sky TG24 che ha una sezione sul sito di approfondimenti che si chiama Insider. Scrivo occasionalmente su Internazionale, Lucy, L'Indiscreto, altre riviste. Ma l'altro mio impegno settimanale è la newsletter che pubblico ogni mercoledì. È il mio lavoro, diciamo, io lo chiamo il mio quartier generale, la newsletter, perché poi da lì parte tutto quello che faccio in giro, fuori, quello che insegno, gli interventi. Mi occupo di dati perché diciamo, li ho incontrati per la prima volta all'università. Io ho studiato scienze politiche, cooperazione internazionale perché volevo occuparmi del sud del mondo, di ingiustizie sociali e ho scoperto di aver fatto un'università in cui mi hanno insegnato davvero bene a trattare il dato, a conoscere le banche dati, perché chi lavora nella cooperazione internazionale in realtà parte dai dati per scrivere i progetti, quindi fare analisi preliminari, fare valutazioni mentre ci sono i progetti e le valutazioni di impatto. Questo è un modo di fare che io credevo fosse, diciamo, applicato in tutti i settori, dall'amministrazione, dalla politica. Non è così in realtà. Però quell'imprinting che ho ricevuto mi è stato poi molto utile quando nel mio lavoro di giornalista ho incontrato il giornalismo dei dati, cioè un modo di raccontare la realtà, raccontare le storie andando a osservare i numeri, sia diciamo, usare i dati, le statistiche per trovare storie che magari non si riescono a vedere in altro modo, sia nel provare a capire come i dati e la tecnologia possono contribuire a creare quelle ingiustizie, quelle oppressioni di cui mi sono sempre voluto occupare. E quindi, diciamo, ho fatto diversi ingressi nel mondo dei dati, sia nel mondo dell'associazionismo, del terzo settore. Sono attivista di un'associazione che si chiama Ondata, che cerca di fare pressione, advocacy sulle amministrazioni pubbliche perché pubblichino i dati in maniera corretta, disponibile al pubblico, perché il nostro diritto all'informazione, diritto a essere cittadini e cittadine informate, passa anche attraverso i dati che noi stessi, paghiamo con le nostre tasse, perché sono quelli che raccontano le nostre, attività umane di cittadini e cittadine. Non so se il concetto di open data l'avete toccato, Secondo me trattato. è bene tornarci. Ok, infatti ho detto io ho la presentazione, ma poi vediamo che cosa, dove Ogni mi tanto porta. alzo la bandierina Sì, ma rossa sì, per... poi ha senso infatti che ragioniamo sui vari concetti a seconda di quello che ci può interessare. Avete mai sentito parlare di open data? Sì? C'è chi non ha mai sentito parlare? È lecito? No? Sapete tutti, Open Data identifica più il formato in realtà, quindi il fatto che i dati possano essere utilizzabili, si dice, dalle macchine, ma non solo. In realtà oggi ci stiamo più dirigendo verso chiedere alle amministrazioni che i dati siano leggibili dagli esseri umani, perché se li leggono gli esseri umani li possono leggere le macchine, paradossalmente. Un dato dentro una tabella PDF, dentro una mappa dove non posso andare a vedere, mi ricordo il Comune di Roma aveva fatto una mappa con i contagi Covid, quartiere per quartiere, quindi molto interessante perché è un'informazione che come cittadina mi interessa, no? Vedere la distribuzione geografica, ma in modo appunto molto granulare, perché un conto è vedere la mappa di Roma, sì, ci sono dei casi Covid, vederla tutta colorata di rosso, un conto è sapere se scendo di casa ho più rischio di, appunto di contagiarmi. Da quella mappa non era possibile ricavare i dati, non era possibile vedere l'andamento storico, vedere il giorno prima, era pubblicata lì. Anche facendo una richiesta di accesso civico, quindi un FOIA che chiedeva il dato, il fatto di parlare di open data, quindi di avere il dato disponibile, la risposta dell'amministrazione era stata il dato è lì, il dato è nella mappa. Quindi che cosa vuoi da noi? Il dato c'è, ma quel dato non è eleggibile dagli esseri umani in quel frangente, ma io voglio avere le informazioni storiche, non posso farlo leggere da un altro programma di computer, non posso fare elaborazioni. E quindi cerchiamo, insomma, faticosamente di dialogare con le amministrazioni perché i dati siano prima di tutto resi pubblici. Pensate che fino a, adesso non mi ricordo più la prima pubblicazione, forse 3 anni fa, fino a 3 anni fa non c'erano i dati degli studenti che decidevano di non fare religione a scuola, non erano pubblici, cioè non era possibile andare a scaricare quei dati, sapere la distribuzione geografica, però sono dati, no, che ci riguardano. Abbiamo dovuto fare delle richieste, adesso vengono pubblicati annualmente. Quindi c'è il dato che viene raccolto ma non viene pubblicato, quello che viene pubblicato ma nel modo preferito dall'amministrazione, ed è, diciamo, una lotta quotidiana, diciamo, su questo fronte, da quelli sulla salute e quant'altro. E il lavoro, diciamo, del giornalista che si occupa di dati in Italia va un po' in parallelo con questa lotta al fatto che i dati devono essere accessibili, devono essere pubblici. Spesso ci scontriamo proprio con la mancanza del dato di per sé, cioè il fatto che non viene raccontato bene, che rimane chiuso. C'è questa idea che solo le persone esperte possano utilizzarlo, possano avere accesso, e quindi il fatto che non sia disponibile, ma sì, poi chi fa ricerca me lo chiede, glielo do. Quindi non è che non c'è una malignità nel non volerlo raccontare, cioè questa è l'idea che mi sono fatta io in questi anni. Non è che si vuole tenere, perlomeno per la maggior parte, ma più una scarsa cultura del dato come bene pubblico e che possa contribuire a far sì che i cittadini e le cittadine possano esercitare la loro cittadinanza attiva. Ho fatto un bel incontro sul tema dei dati della disabilità e un attivista per la disabilità mi diceva proprio: ma non è che non c'è solo il dato, sul portale Istat non sono aggiornati, mancano i dati di base per andare a protestare, cioè ci sono, noi dobbiamo andare a cercare determina per ogni comune come vengono distribuiti i fondi per la vita indipendente delle persone disabili, e ci viene solo detto se ci sono o non ci sono questi soldi, quindi non possiamo nemmeno esercitare, no, la nostra davvero piena cittadinanza. Quindi da questo punto di vista si apre tutto un fronte. Nella mia, diciamo, divulgazione su queste tematiche, io cerco di partire un po' sempre dal capire che cosa sono i dati, quindi dell'avere una base comune, perché ognuno di noi ha un'idea in base al lavoro che fa, quello che ha sentito, gli studi che ha fatto, però mi piace vedere se riusciamo a trovare appunto un terreno comune. Allora, la parola dati ha un problema. Almeno io la evidenzio in questo modo. Deriva dal latino datum, che significa dono, cosa data, e questo è un problema perché noi ci aspettiamo appunto che i dati che leggiamo, che vediamo in giro, che noi pensiamo che esistano ovunque, pensiamo che siano lì, cioè che qualcuno ce li dà o arrivino dall'alto, ma in realtà non è dato per niente, cioè prima di arrivare ad avere prima di arrivare dentro gli archivi, prima di arrivare dentro le tabelle o anche nel formato, no, visualizzato, raccontato, c'è tutto un processo che diciamo nell'utilizzare questa terminologia ce lo fa dimenticare. Una cosa che ho scoperto appunto scrivendo l'ultimo dei miei libri, Quando i dati discriminano, è che fino a metà del 1600 in inglese non si usava la parola data, anche nell'ambito scientifico si usava la parola facts, fatti, cioè una raccolta di fatti, erano i fatti. La parola dato veniva utilizzata nell'ambito religioso, perché appunto era qualcosa di dato divinamente, cioè era un dato, non va messo in discussione, perché e la prima parola si ritrova proprio in un testo di liturgia dove si diceva ai sacerdoti delle pratiche che dovevano portare avanti. E noi però ci portiamo dietro questa accezione, cioè il dato è lì, è quello, lo dicono i dati, c'è un dato, e difficilmente, no, riusciamo ad attivare una serie di meccanismi che cercano il complottismo, no, che cercano in qualche modo di dire non è la verità, ma che ci fanno prendere questo oggetto e osservarlo esattamente come facciamo con le parole, con le dichiarazioni, con le storie. vediamo di cosa è fatto, vediamo, mi piace anche il concetto di viaggio del dato, cioè come ha fatto ad arrivare fino a noi in questa forma. Ci sono due autrici, Sabine Leonelli e Anne Beaulieu, ci sono un libro che cito spesso, si chiama Data in Society. Loro parlano di viaggio del dato per dire dove va oltre il dato, per esempio, che viene raccolto dagli strumenti digitali che utilizziamo, il telefono, wearable, dove va quel dato, qual è il viaggio che fa. Una cosa interessante è pensare oggi che il dato che noi produciamo e che noi, anche quando stiamo sui social network, sulle piattaforme, non si ferma, cioè noi lo produciamo con uno scopo, quando mettiamo un commento, mettiamo una fotografia, la pubblichiamo, il nostro scopo è quello di, non so, intrattenimento, mettere la foto delle vacanze. Con le nuove modalità di addestramento dei grandi modelli linguistici, quel dato può diventare, sapete che adesso Meta dice io userò i vostri dati per l'addestramento del mio modello, può diventare materia di addestramento per un sistema di intelligenza artificiale. Quindi siamo in una fase in cui il dato che creiamo non è più utilizzato solo per quello scopo, ma può essere utilizzato per scopi altri che non erano previsti originariamente. Questa è una delle problematiche che si hanno, no? Quando si pensa ai dataset, ai milioni di dati utilizzati per allenare le intelligenze artificiali. Quei dati non erano stati creati appositamente. Cioè, quando si parla di addestramento, di macchine, di machine learning, venivano creati dei dataset apposta, cioè devo allenare dataset per andare a riconoscere, non lo so, i tumori della pelle. Vado a creare un dataset specifico dove scelgo delle immagini di radiografie, di ecografie, eccetera, e vado a inserirli, lo creo e lo do in pasto alle intelligenze artificiali. Oggi si ragiona sull'abbondanza, quindi sul prendere cose che erano state prodotte per fare altro, tra cui appunto libri, testi che mettiamo su che scriviamo commentando i social, fotografie. Quindi il viaggio del dato sia all'indietro, dobbiamo pensarlo, sia andando appunto in avanti, cosa può diventare dopo. Anche qua mi piace tornare sempre più indietro, prima di chiederci cosa sono i dati, dobbiamo chiederci cosa vuol dire contare, perché noi in realtà i dati che cosa ci servono? Per quantificare la realtà, cioè è uno strumento che abbiamo per osservare la realtà misurandola in qualche modo, e quindi noi contiamo. Ma cosa facciamo? Qual è l'operazione di contare? Che cosa è che facciamo? Assegniamo parole numeriche alle cose esattamente come ci hanno insegnato alla scuola primaria. E posso dirvi che si insegna ancora così, non so se qualcuno ha bambini che vanno a scuola o un testimone di prima mano che mi fa vedere che sono le stesse cose. Quindi cose gialle le raggruppiamo, l'ape, il pulcino, la stella, il sole, le cose dolci, gli animali. Però cosa stiamo facendo quando facciamo questa operazione? Noi mettiamo insieme delle cose che hanno degli elementi in comune, ma che sono molto diverse. Annulliamo le diversità che ci sono qui all'interno di questi gruppi e li mettiamo insieme, trovando un elemento in comune, standardizziamo. Quando dobbiamo contare, qualsiasi operazione facciamo nel misurare qualcosa che avviene all'interno della società, pensiamo a quello che fa l'Istat, deve andare a misurare i consumi degli italiani, standardizza, non è che può prendere ognuno di voi e dice ok, questa famiglia fa così, quell'altra fa così e però compra una certa marca, no, non gli interessa, mette insieme, aggiorna ovviamente ogni anno, fa dei cambiamenti per il famoso paniere, no, in cui all'interno dei consumi anche di prima necessità si mettono alcune cose, se ne tolgono altre, ma si deve trovare uno standard in qualche modo e quindi lo facciamo, non vediamo più le differenze, le singolarità. Nel gergo si dice appunto che aggreghiamo e aggregare vuol dire perdersi certi dettagli. Qua potrei disaggregare e dire animali e stelle, per esempio. O disaggregare in questo modo cose dolci che assomigliano a omini di marzapane, cose dolci che assomigliano a pacchetti regalo, eccetera. È una cosa che facciamo tutti i giorni, cioè l'abbiamo iniziato a fare così e questo è il modo che noi ci portiamo dietro per contare. È un assetto culturale, cioè abbiamo imparato in questo modo, ce l'hanno insegnato in questo modo e noi lo facciamo così. A me affascina sempre vedere come appunto il modo che ogni volta che appunto si decide di contare qualcosa a livello istituzionale, ma non solo, si devono prendere delle decisioni, ci sono persone riunite in conferenze che durano settimane, come lo misuriamo, nuove forme di impiego, e sono lì a discutere. E vedete che tutto quello che noi ci portiamo dietro, no? Del dato, che cosa data non è dato, quanto lavoro c'è per andare a identificare che cosa mettere dentro una singola terminologia. La siccità, non solo i fenomeni sociali ma anche quelli geografici, come misuriamo un fenomeno fisico, un fenomeno legato al climate change. E prima ho già accennato appunto alla costruzione dei dataset per allenare i modelli linguistici. I dataset che vengono presi, no? Quando viene raccolto harvest proprio il dato su internet, sono dati non strutturati, cioè come se io spargessi sulla tavola tutte le cose, che palline colorate, ma di ogni tipo, una scrivania disordinata. I data worker devono strutturarli, perché altrimenti le macchine, se il dato non è strutturato, non riescono a ricavare informazioni. Dobbiamo dargli delle etichette, dobbiamo metterli nelle categorie. Fanno lo stesso lavoro, fanno questo lavoro qua, ma non lo fanno le macchine, cioè lo devono fare. Il grande lavoro è umano. L'altro inganno del pensare che si tratti, che abbiamo a che fare con tecnologie che funzionino da sole. Quando si parla di automazione, è sempre semi-automazione, non c'è niente di automatico, non esiste ancora al mondo qualcosa di totalmente automatico. L'etichettatura del dato permette di identificare esattamente se queste sono persone, alberi, pali, biciclette. Pensiamo nello sviluppo della guida delle automobili semi-autonome, infatti è stato un grande momento di lavoro in cui sono stati strutturati dataset di immagini, soprattutto, che poi vengono utilizzati ancora oggi nei modelli che generano immagini e video. Però sempre facendo queste scelte umane. Contare e categorizzare sono appunto scelte umane. Cosa succede quando una categoria non viene contata? Cioè quando elimino le differenze perché devo standardizzare. E questo succede, cioè noi non è che non lo facciamo in qualche modo. Allora, ve lo faccio vedere questo video, provo. Anzi, in realtà forse potrei cliccare. Siamo amplificati, quindi se c'è audio si dovrebbe... Sì, ma si sente, guarda, lo faccio... Tanto che si carica, faccio. Sì. That has its limitations, especially when it comes to language data. But in this series, you'll know I care about data. But data has its limitations, especially when it comes to language. Basically, if you get your categories wrong, you can wind up with some pretty misleading statistics. And the US Census is a prime example. Facciamo caricare un po'. Se vuoi guardare il link, no? Dal computer principale. Oh, I care about data. But data has its limitations, especially when it comes to language. Basically, if you get your categories wrong, you can wind up with some pretty misleading statistics. And the US Census is a prime example. Every 10 years, this survey aims to collect demographic data from each and every resident of the US and its territories. Those responses help the government to determine everything, from the allocation of seats in Congress and the Electoral College, to the allocation of hundreds of billions of dollars in federal funds. And those funds pay for things like new hospitals, road improvements, and school lunch programs. And crucially, the statisticians that work there are non-partisan. They sit at the same desks applying the same formulas no matter who is in charge at the White House. So undoubtedly, the US Census Bureau does important work, but it does have some blind spots. For example, there has been a decades-long effort to add the category Middle Eastern or Northern African, or MENA to the census. Currently, the census defines people from these regions, and that includes me as white. Yeah, that's incorrect. In 2015, the census did test a version of this survey that included MENA. It found that when given a MENA option, the number of people from that region who identified as white dropped from 86% to 20%. See, when you reconsider language, the numbers can change dramatically. Unfortunately, though, the census still didn't make the change, saying that further tests were necessary to determine if MENA should appear under ethnicity instead of race. That means that those who have rallied for its inclusion will have to wait another decade to see if our community can be recognised. This isn't the first time that language has restricted how people are represented in the census. The very first one, way back in 1790, only had three broad categories, and I quote, slaves, free white men and women, and all other free persons. It would be another 30 years before distinct categories for free blacks and another 40 years before American Indians would appear on the census. Since then, more and more categories have been added, but progress has been slow. It wasn't until 2000 that people could choose more than one race to describe themselves. And for the very first time in 2020, people who selected black or white could go a bit more granular and provide more detail about their origins, like naming France or Somalia, or spotlighting their indigenous identity. Right now, you might be thinking, why does the wording on a survey even matter? Race and ethnicity are social constructs anyway, but that doesn't change the lived experience of those who aren't truly reflected in these forms. Questionnaires need to ask the right questions if they want to capture what's really happening in the world. A Northern African non-binary person might be misgendered or considered white by the census, but face disproportional discrimination, health disparities, or language barriers that are unique to their community. It's no wonder then that it's often marginalized and vulnerable communities, ones whose identities are missing from these forms, that lack access to governmental resources and protections. Now, there are some understandable historical reasons why people might not want to engage in this kind of data gathering, but without the data, it's just easier to deny that inequality is real. If we want a more equitable society, we have to measure our reality. And the best way to start is by using language. Anche ieri c'era così che si fermava alla fine per usare riconoscere le differenze. Non so se avevate mai osservato questa. Ups. Troppo indietro. Cioè, se avete mai pensato al fatto di avere o non avere certe categorie, per esempio nel censimento. Negli Stati Uniti, fino adesso almeno, si hanno le statistiche disaggregate per razza ed etnia. Cioè, è possibile andare a vedere nel sito appunto con i dati sanitari, c'è una domanda? Okay. Se una certa patologia colpisce di più le persone nere, bianche, ispaniche, arabe, il fatto però di non essere incluso fa sì che ovviamente una certa categoria diventa più rappresentativa di altre anche se non lo è. Quindi le scelte che vengono fatte proprio nel come conto le persone, cioè che categorie metto, quali possibilità gli do per essere comprese, può andare a cambiare proprio la percezione della società. Così come, per esempio, avere un binarismo di genere, no? All'interno delle statistiche. Oggi la maggior parte delle statistiche si basa sul sesso, non sul genere, e quindi si ha il binarismo uomo-donna. Per la prima volta quest'anno l'Istat ha fatto un'indagine sulle discriminazioni delle persone non binarie trans nei luoghi di lavoro e quello ha mostrato, per esempio, qual è la situazione per le persone che occupate, che si identificano come trans e non binarie. Così come quando si parla di dati sulla violenza di genere, il fatto che manchino dati sulle persone disabili fa sì che non ci sia una visione particolare di quel tipo di fenomeno sulle donne disabili. Ma perché manca? Perché non ci sono le domande, cioè non c'è la domanda che fa sì che possa essere riconosciuto quel tipo di violenza. E il fatto di non dare farmaci alle persone, di non spostarle da una stanza all'altra, quelle sono forme di violenza che non sono previste oggi nei questionari. Leggevo la storia di come sono state fatte le prime indagini sulla violenza contro le donne. Allora, è interessante quella in Italia, che è stata fatta per la prima volta nel 2006, ci hanno messo 3 anni a creare un questionario. Avevano usato un gruppo pilota di, sia di intervistatrici che di rispondenti, e all'inizio loro erano disperate perché appunto non riuscivano ad avere, a trovare il modo di far rispondere alle donne alle domande. Cioè era stata emblematica una che gli aveva raccontato cosa faceva il marito, e loro dicevano: caspita, ha fatto tutte queste cose. Poi alla domanda, suo marito è una persona violenta? No, cioè non è che ha fatto queste cose perché è violento, ma perché, poverino, stanco, quando torna dal lavoro. Quindi il riconoscimento di quello che succede a te, riconoscimento da parte delle statistiche, ma e anche trovare il modo perché quello possa emergere, no? dal questionario. Così come i questionari internazionali, andare a identificare e mettere le forme di violenza all'interno delle dichiarazioni, pensate alla Convenzione di Istanbul, alla Dichiarazione di Pechino. Deborah Stone, una scienziata politica, che forse cito nelle slide successive anche oggi, diceva che all'interno di quelle stanze, quindi di chi faceva le domande, a un certo punto si erano rese conto che forse mancava la prospettiva del sud del mondo, erano tutte donne bianche del nord, ok, o forse siamo all'ONU, ci manca una prospettiva globale. Sono state invitate appunto donne indiane, pakistane, africane, e le donne indiane e pakistane dicevano: ma avete messo come forme di violenza il fatto che durante il ciclo mestruale noi siamo costrette a dormire fuori casa, che siamo ripudiate se abbiamo solo figlie femmine? Ah no, non ci avevamo pensato, perché quelle non erano forme di violenza, no, nel mondo occidentale bianco. Poi queste forme di violenza non sono state incluse, infatti lei dice non solo chi è nella stanza dobbiamo guardare, ma se poi chi è nella stanza viene ascoltato. Perché non sono state incluse? Perché si è aggregato, non è che non si sono riconosciute, ma è stato detto: non possiamo andare a vedere la specificità, che è una scelta però umana, quindi dobbiamo pensare che quello che ci racconta il dato non è quello che è quello che è stato deciso di osservare. Diciamo, si può dire che è un po' come far collassare la funzione d'onda nel momento in cui decidiamo di misurare, no? Mm-hmm. Perché decidiamo in che mondo vogliamo stare, però l'abbiamo deciso noi. Sì, sì, sì. È quella, la decisione è quella. È un po' appunto la critica al dire: lo dice il dato dice un pezzo della storia, non è che dice tutto, dice come è veramente limitato, diciamo, il modo in cui noi possiamo utilizzarlo. Però ecco, quando i dati discriminano perché noi separiamo, cioè discriminare vuol dire separare, a un certo punto questa cosa la facciamo, ma dobbiamo solo ricordarci che i dati rappresentano una parte della realtà, non è tutto. All'interno di quella statistica, di quel numero, andiamo a vedere delle intersezioni specifiche. Una storia appunto che ho messo nel libro, che però ho conosciuto, era un outlier, una persona che non era inclusa nelle statistiche: come viene calcolata la povertà in Italia. Quando vado a vedere i dati della povertà, io ho il nucleo familiare, poi ho maschi e femmine, anche disaggregazione per età, quindi figli minori, figlie, ma come viene contata? Non è che viene contata ogni singolo individuo, si prende il nucleo familiare. Quindi si valuta quali sono i nuclei familiari che vivono in stato di povertà, alto reddito, medio reddito, basso reddito, e poi si vede chi c'è all'interno di quel nucleo familiare, quanti uomini, quante donne, quanti bambini e bambine. Questo cosa vuol dire? Che se all'interno della famiglia il reddito non è redistribuito, e quindi io sono parte di un nucleo ad alto reddito, ma il mio partner, la mia partner non mi dà, io non lavoro, mi dà un pocket money che a malapena mi serve per fare la spesa la settimana, non ho il conto corrente, non posso prendere decisioni, io sono una persona povera all'interno di un nucleo ad alto reddito, ma nella statistica non si vede. Questo è stato un caso emblematico proprio che ho conosciuto, di una persona che poi è uscita dal suo nucleo familiare, allora sì, poi viene contata dalle statistiche quando diventa nucleo monogenitoriale, per esempio. E questa è tutta la questione della violenza economica, che non viene difficile da contare. Quindi dicevo che volevo arrivare a una definizione: i dati possiamo interpretarli come cose che succedono, quindi non so, gli autobus che passano, quindi analizzo, misuro la frequenza, cose che esistono, che ci sono, quindi vado a misurare, non so, fenomeni naturali, le persone, che si percepiscono, quindi anche le percezioni, pensiamo a tutte le cose legate, no, alla questione della salute mentale e non, e che qualcuno decide però di nominare, quindi ci va anche qualcuno che dice quella cosa ha quel nome specifico e io lo voglio, voglio andarlo a vedere e misurarlo per quello che è, osservare, contare e classificare. Quindi decido che mi interessa, gli do un nome specifico, lo osservo, lo conto, lo misuro e lo classifico, metto in categorie. Di fianco vi ho messo un esempio da Mona Chalabi, quella che avete visto prima, una data journalist e designer che lavora per il New York Times e per il Guardian. Questo è il gender pay gap, quindi anche qua definisco un nome, lo osservo e vado a misurarlo, cioè decido che mi interessa andare a vedere la disparità di salario tra uomini e donne. Ma guardate cosa fa lei, va a vedere non solo tra uomini e donne, ma separa, disaggrega per razza, in questo caso usiamo la definizione proprio americana. Quindi perché lo fa? Perché il suo punto di vista è un punto di vista ben specifico, quello di una persona razzializzata, di una persona di origini irachene, che vede le disparità non solo di genere ma anche di classe e di razza, appunto. Quindi vedete che questa decisione dipende anche molto da chi sono, da cosa osservo, da qual è il mio punto di vista. Il fatto di essere inclusa o meno all'interno, no, di queste decisioni cambia. Quando si dice ci sono solo uomini a parlare di un certo argomento, non è perché uno poi vuole una donna a caso in mezzo, no, come l'account Instagram, la donna a caso, ma perché la presenza non sul palco ma prima in determinati processi cambia il modo di osservare, così come la possibilità che siano le persone disabili, no, a dire la propria su come deve essere valutato, osservato un fenomeno. Ed è fondamentale ricordarci che i dati sono umani, appunto, hanno dei limiti come li abbiamo noi come esseri umani, e anche chi porta i dati ha le sue opinioni. Non è che senza dati sei solo una persona con un'opinione, anche con i dati sei una persona con un'opinione, non è che cambia questo. Magari hai usato il dato per quantificare, per andare a vedere se le cose della realtà che stai osservando hanno degli elementi in comune. E ci stanno, quindi dico guarda, prendo, raccolgo il dato, vedo se posso raccontare qualcosa in più. E dal momento che i dati hanno dei limiti, e anche chi porta i dati ha le sue opinioni, se la società è sessista, razzista, abilista, anche i dati lo sono, non è che possono essere diversi, così come gli algoritmi e le intelligenze artificiali. Mi ricordo se ho tolto delle slide che volevo farvi vedere, non ancora, ogni tanto tolgo e metto. E appunto dal momento che sono sessisti, razzisti e abilisti non sono neutri, cioè non possiamo pensare di avere a che fare con uno strumento oggettivo, è uno strumento soggettivo. Deborah Stone, eccola, scienziata politica, in questo libro lei proprio va ad analizzare come si usano i numeri, le statistiche per governare, per andare appunto a prendere decisioni, e lei dice i numeri sono un'invenzione, una finzione, così come le storie o le parole, cioè ci siamo inventati noi anche il modo di chiamarli. Il problema qual è? È che noi vogliamo essere oggettivi, cioè di solito quando vado a fare interventi in giro la domanda che arriva, la prima è: ma allora come facciamo a essere più oggettivi? Ma perché vogliamo essere più oggettivi? Dobbiamo chiederci questo. E infatti noi vogliamo questo, abbiamo chiesto, lei dice, al genio della lampada, al genio della giustizia e della correttezza di renderci più equi, più corretti. Io ho detto va bene, tieni, ti do i dati, ci ha un po' fregato, perché noi con questo strumento pensiamo di esserlo, in realtà ci portiamo dietro appunto tutta la nostra soggettività. Soggettività che è situata come la conoscenza, cioè il modo in cui noi osserviamo il mondo dipende dal corpo che abbiamo, quindi dall'essere una persona abile, disabile, bianca, asiatica, dalla cultura che abbiamo, quindi il modo, le nostre strutture, no? Il modo in cui ci insegnano a contare a scuola, il modo in cui impariamo, una cultura orale, una cultura scritta, ci fa interpretare il mondo in modo diverso, e le autrici di Data Feminist dicono i dati sono il prodotto di relazioni sociali inique condizionate da secoli di storia. Cioè non è che la colpa è del programmatore bianco che programma l'algoritmo, ovviamente è un'immagine, no, che abbiamo, l'intelligenza artificiale con i bias, perché lui è un uomo bianco con i bias, ce li abbiamo tutti, cioè viviamo in una società dove le discriminazioni, le oppressioni sistemiche sono alla base anche delle delle strutture pubbliche. Data Feminist che cos'è? È un libro, una raccolta di approcci alla data science, alla statistica, che queste due autrici, Catherine D'Ignazio dirige un lab all'MIT di Boston e Lauren Klein, non ricordo di quale università, insegna geografia, se non sbaglio, e loro analizzano sia diciamo lo stato dell'arte, cioè le pratiche femministe di data science e di raccolta dati, ma anche danno 7 principi che dopo vedremo per capire come avere un approccio diverso alla raccolta dati. Il fatto, cioè tutto quello che noi stiamo dicendo, ma un po' di indizi ve lo dati, non sono il modo appunto in cui noi raccogliamo dati, misuriamo, osserviamo una società, decidiamo di mettere, di aggregare, di disaggregare oppure no, non è solo una questione di come poi sono presentati i dati e i grafici e li leggiamo in un certo modo, ma hanno un impatto sul corpo delle persone, hanno un impatto diretto su come posso vivere o meno la mia vita. C'è un caso per esempio di dato disaggregato che non veniva raccolto negli Stati Uniti, quello sulla mortalità materna, che è diventato emergente con la storia che ha riguardato Serena Williams, la tennista, che con la sua prima figlia ha rischiato di morire di parto. Non so se avete sentito la sua storia, perché aveva avuto grosse emorragie dopo il parto, dolori, e lei chiamava i medici e le dicevano: vabbè, è normale, hai partorito, dolore e perdite di sangue sono normali. No, ma io li ho proprio forti. Lei è stata, diciamo, il suo potere ha fatto sì che venisse ascoltata. Aveva un problema di coagulazione del sangue che hanno tra l'altro molte persone afroamericane, ma non era solo questo il problema, è che le persone nere vengono sottovalutate quando dicono di avere del dolore, sono considerate come esagerate. La mortalità materna negli Stati Uniti è molto alta per essere un paese industrializzato, lo è molto di più per le persone non bianche, soprattutto per le persone nere. Quindi vedere il dato specifico ci fa andare a individuare patologie o comunque modalità di approccio, e quindi atterra sul corpo in una questione di vita o di morte, cioè non è come dire una cosa che si dice, è reale. Tra me e il mondo è la lettera che Ta-Nehisi Coates scrive al figlio, lui è un autore, uno scrittore afroamericano, dopo l'ondata di arresti e di uccisioni di neri negli Stati Uniti, in qualche modo gli dice: stai attento, cioè lui vuole dirgli watch out quando vai in giro, perché il tuo corpo di persona nera quando è in una strada ha un impatto diverso da quello di un ragazzo bianco della tua età. Se ti metti il cappuccio in una felpa col cappuccio e sai, più possibilità di essere fermato, e il fermo della polizia delle persone nere va a finire, diciamo, peggio nei confronti delle persone nere piuttosto che delle persone bianche. Questo libro è uno dei libri che mi hanno fatto capire, no, esattamente il femminismo intersezionale, cioè non è una questione di uomini e donne, ma appunto del corpo che si abita, cioè il corpo che abiti ti mette a rischio appunto di oppressione sistemica. Qua la parola appunto che va utilizzata, che utilizzano anche le autrici di Data Feminism, è il potere. I dati sono un'espressione di potere. Pensiamo alla raccolta dati che si viene fatta a livello digitale, che il potere di estrazione che hanno le aziende, le corporation, per gestire i nostri dati. Chi di noi si può permettere pagare bollette da milioni di dollari della luce? No, non abbiamo questo potere. Chi gestisce il data center ce l'ha. Un potere che attraversa i corpi di chi produce quel dato, quindi il corpo, come vi dicevo prima, della persona che decide che cosa fare, conta, così come conta il corpo di chi è narrato da quel dato. Il modo in cui io raccolgo il dato può fare la differenza. Pensiamo a come viene trattato, no, il dato sulle persone migranti che arrivano in Italia. Cosa sappiamo delle persone che arrivano, quegli sbarchi? Da dove arrivano? Quante sono arrivate? Dove vengono distribuite? Non abbiamo altre informazioni, cioè di quelle persone sappiamo quello, non sappiamo cosa sognano, che sport amano, che cosa vogliono diventare da grandi, perché sono venute qui. Non abbiamo un dato, no, che le renda umane in qualche modo. Sempre parlando di disabilità, il progetto, c'è un bel progetto che si chiama Disabled Data, che ha portato avanti la fondazione, magari ve lo faccio vedere, faccio queste digressioni. l'associazione Fight the Stroke, quando si sono resi conto appunto che trovare dati sulla disabilità in Italia era molto difficile. E quindi hanno collaborato con la mia associazione Ondata e con uno studio di designer per mettere in un unico punto, diciamo, tutti i dati sulla disabilità in un unico sito. Quindi si può esplorare la dashboard, vabbè, qua c'è tutta la spiegazione dei widget, chi sono le persone con disabilità, guardate anche l'anno 2019, anno, diciamo, di aggiornamento, come vivono, pratica sportiva, eccetera. Hanno fatto un quiz per vedere quante ne sai sulle persone con disabilità. La domanda sullo sport è super interessante, perché tu provi ad andare a rispondere, vediamo se si apre, se no ve la racconto io. E loro dicono qual è lo sport preferito delle persone disabili? Basket, nuoto o arrampicata? Tu provi, dici, boh, proviamo una di queste tre, vai a vedere la risposta e c'è scritto non lo sappiamo neanche noi, perché questo dato non è raccolto da nessuno. E questo cosa vuol dire, l'assenza di questo dato? Vuol dire, per esempio, che le pubbliche amministrazioni non possono decidere di finanziare un programma per dare il campo di pallacanestro alle persone disabili, che poi è una delle federazioni più grandi in assoluto, il pallacanestro per disabili, cioè, per esempio, esatto. Però se non c'è il dato, magari anche la decisione politica, no, di fare un investimento, cioè, un po'. Esatto, questo, ma non solo. Pensiamo non solo ai politici, spesso chi è che organizza cose per le persone disabili, anche le associazioni, no? Come decido? Per stereotipo. Bambino disabile fa nuoto perché fa bene, no? C'è questa. E no, magari vuole fare skateboard, magari vuole andare appunto a fare arrampicata. Infatti, loro, per esempio, fanno questi camp estivi dove fanno sport, di cui non abbiamo mai sentito parlare, perché oltre lo stereotipo, no? Ma se tu non vai a sapere esattamente, senza il dato, tu rimani con la tua idea. Quindi il dato sì, può portare avanti bias, però magari invece ti fa scoprire delle cose che non sapevi. Questa cosa sullo sport per me è emblematica, perché la loro idea proprio è partita da: ma non è che noi tutte queste campagne che noi vediamo sulle persone disabili sono piene di stereotipi perché non le conosciamo? Caspita, sì. Cioè, vai a cercare quante sono le persone disabili in Italia, neanche il numero si sa. Cioè, e stiamo parlando almeno del 5% della popolazione, in base al dato ISTAT. Se invece poi si va a vedere altri tipi di dati, appunto si sale anche al 15. Questo è un altro esempio, quando i dati mancano, altro atterraggio concreto sul corpo. Questa la conoscete? Sì. Qualcuno dice no, qualcuno dice sì. Joy Bulanguini, lei si definisce poeta del codice informatico, è un'informatica, e qua nella foto è ritratta mentre faceva una ricerca al laboratorio, a un laboratorio del MIT. C'è Coded Bias, è un documentario che riguarda lei e i bias dell'intelligenza artificiale. Non so, era su Netflix, non so se c'è ancora, se no c'è la sua TED Talk. E lei dice, ha provato, diciamo, stava facendo degli esperimenti con dei sistemi delle telecamere, sistemi di riconoscimento facciale, solo quando indossava la maschera bianca, quindi metteva la maschera bianca davanti al volto, il sistema iniziava a funzionare. Togliendosi la maschera, il suo volto nero non era riconosciuto. Ha iniziato ad approfondire la questione facendo un'analisi di questi tre sistemi, Microsoft, Face++ e IBM, mettendo dentro un dataset di parlamentari da tutto il mondo, e ha scoperto che c'era un'inaccuratezza di identificare il volto umano per le donne e per le donne non bianche. Man mano che si scriveva la pelle, questi sistemi... È ancora su Netflix, ma guardatelo, perché non c'è solo lei, ma Coded Bias. E coded bias, bias codificato. E perché atterra sul corpo? Negli Stati Uniti questi sistemi sono usati nelle telecamere di sorveglianza, non semplici telecamere, ma telecamere con l'intelligenza artificiale. Vuol dire che identificano, provano a identificare, la tentano le persone non so se avete letto, notizie di un sacco di persone nere arrestate che non erano assolutamente quelle che avevano commesso il reato. Una donna incinta c'era stato l'ultimo caso a Chicago, se non sbaglio. Quindi atterrare sul corpo vuol dire quello, cioè vuol dire che non stiamo parlando appunto o c'è una tabella con il dato mancante, ma un impatto reale. Cosa succederà? Io prima vi ho detto, fino adesso negli Stati Uniti c'è una raccolta dati disaggregata, no? Per razza ed etnia, io lo prendevo a esempio, che bello, vado sul sito del Centers for Disease and Control, ci sono dati di tutti i tipi. Arriva Trump, avete sentito questa notizia, ha deciso intanto di interrompere, sono stati cancellati, è arrivato 7000 dataset dai siti di amministrazione pubblica, poi mano a mano venivano rimessi. Ma dove? Nello stesso posto? Non si sa. C'è un tracker che fa vedere appunto quanti venivano inseriti o meno, e non solo, ha definito una lista di parole non sconsigliate, però che possono essere soggetto di scrutinio, di controllo, di verifica. Quindi cosa si fa? Cosa fanno i ricercatori? Per evitare di rimanere bloccati non presentano più ricerche di questo tipo, fondi bloccati, ma ricerche che vanno dal diabete ad altro, tutte le ricerche che includevano i topi transgenici, per esempio, non so se avete letto questa notizia, bloccati perché includono la parola trans, che però non c'entra niente, e ce ne sono tantissimi, no? Malattie del cervello. Perché questa scelta? Per riportare, secondo Bannon, a una scelta a una scienza oggettiva. È questo che deve farci interrogare sul nostro desiderio di oggettività. Dove ci porta il desiderio di oggettività? A dire che prima non era oggettiva e adesso sì. In realtà non è mai stata oggettiva. Anche il modo in cui decide di finanziare o meno alcuni settori, alcune appunto ricerche, dipendono dall'interesse. C'era stato un grande finanziamento, se non sbaglio, sì, sotto Biden, sulle rinnovabili, no? Sulle questioni delle fonti di approvvigionamento alternative al carbone. È politica quella scelta, non è che è neutra, cioè si prendono delle decisioni, ma non è che adesso si ritorna invece all'oggettività se io vieto di usare alcune parole che sono connotate. È in atto una resistenza basata sul guerrilla archiving, cioè è stata già in atto, infatti vi ho messo anche articoli del 2017, non è la prima volta, già durante la prima presidenza Trump era successo, se ne era parlato molto meno, ma era già successo, soprattutto i dataset che riguardavano il cambiamento climatico, cancellati dai siti, vuol dire fare interrompere storie storiche, perché io posso salvare dataset dentro archivi, ma se poi non continuo a raccoglierli avrò il buco finché non torna un altro presidente. Hackathon per salvare appunto dati, e il lavoro, no, dell'archivista, di chi fa questo mestiere, torna a essere un lavoro appunto importante. End of Term Web Archive è un sito, non so se ne avete già parlato, un sottosito. Abbiamo parlato di altre iniziative militanti, okay, gli archivi, ma non specificamente di questa. Questa è una sottosezione di archive.org, di Web Archive, nata dopo l'amministrazione Obama per salvaguardare i cambiamenti, ma proprio come motivazione anche di mantenimento storico, no? Di quello che è stato, di cosa hanno fatto le amministrazioni precedenti, poter fare confronti, e vengono salvate tutte le pagine governative, quindi a partire dall'amministrazione Obama in poi, e si fa anche con quelle di Trump. E tutto quello che abbiamo, cioè dal momento che il dato non è neutrale, anche quello che io raccolgo nell'archivio, anche se non è, in quel caso non lo faccio per standardizzare, ma decido che cosa inserire, decido il modo di osservare o meno una realtà, decido di prendere appunto, di osservare parti della storia, della nostra cultura, ha, no, delle motivazioni che dipendono anche da chi le porta avanti. Il fatto, no, del dato situato e dal corpo che abitiamo, la ricerca per esempio che ha fatto Joy Bullion-Winnie, il fatto di riportare negli archivi storici la cultura degli afroamericani, sicuramente questo viene, no, è un'idea di persone che subiscono sulla propria pelle le discriminazioni dal fatto di non avere questo tipo di storia raccontata. così come il lavoro di chi conta i femminicidi e lo fa con un obiettivo non di standardizzare, ma appunto di archiviare le storie delle donne che sono state uccise. Questo è un modo di lavoro che viene fatto da le attiviste nel mondo che si occupano di questo tema, hanno tutte lo stesso obiettivo, cioè raccolta dati perché venga in qualche modo portato davanti, no, alle istituzioni politiche, che si tratta di un fenomeno strutturale che va preso in considerazione, ma non solo. Al tempo stesso non vogliono che quello diventi, che si parli il linguaggio dei dati quando si parla di vittime di femminicidio, e negli archivi infatti sono costruiti con l'idea di raccogliere proprio le storie, ma anche per esempio di raccogliere indizi, di aiutare le famiglie delle vittime a ottenere giustizia. Questo avviene soprattutto nel sud dell'America Latina, appunto, dove ci sono leggi che puniscono il femminicidio, ma è comunque difficile ottenere giustizia. Solo una parentesi, perché è molto interessante quello che dicevi sull'iniziativa politica, come governativa, per provare a limitare, marginalizzare gli archivi e questo tipo di movimentismo, questo tipo di militanza tra gli archivi. In un post di proprio di News Archive, se non sbaglio, c'è cioè il fondatore di Archive.org, che tutti usano qua perché ho chiesto a tutti di aprire un profilo su org, su Archive.org. Lui diceva che le iniziative anti-DEI, cioè contro la famosa lista di parole che abbiamo visto l'altro giorno anche con Claudia Pecoraro, le parole vietate, i documenti pubblici e così via, ma anche le iniziative contro gli archivi in realtà non hanno fatto altro che aumentare gli accessi ad Archive. E la cosa interessante è proprio perché viene visto come un tema politico per la prima volta. Finché Archive.org era marginalizzato dal mercato, che non esisteva un modello economico per renderlo concorrenziale nella famosa lotta per l'attenzione di cui stiamo parlando dall'inizio del corso, in realtà il gruppo che ruota intorno a questo Archive.org, The Wayback Machine, eccetera, eccetera, era considerato una specie di incidente della storia, che quelli si divertono a salvare le cose, si sentono tanto fighi, eccetera, eccetera. Adesso che quella piattaforma è diventata il posto dove si fanno anche operazioni come questa, perché è molto semplice per loro salvare un intero sito web, per esempio gli archivi dell'amministrazione Obama, basta proprio chiederlo, c'è un bottone, save this website, lo puoi fare anche tu. Io l'ho fatto col macro asilo quando temevo che l'archivio del macro asilo venisse buttato giù da azienda speciale Palaexpo. E no, per dire che ciascuno di noi, se vede che un archivio traballa, diventare un errore 404, può andare lì e fare delle copie di un intero sito, e loro ci pensano, ok? Ora che è diventato qualcosa, diciamo, di rumoroso, perché poi queste iniziative anti-archive sono molto pubblicizzate dall'amministrazione Trump e in generale, no? Ecco, diventa improvvisamente non più marginalizzato dal mercato, ma diventa un luogo improvvisamente visibile. Quindi è anche un po' un autogol. Sì. Ma come la prima amministrazione Trump aveva fatto tanto per la data literacy, perché talmente raccontavano cose improponibili con i dati che poi c'era il contrasto, e esempi che ci ha regalato dal 2016 in poi erano stati, cioè, metà delle slide quando vado a insegnare le ha fatte Trump, quindi sì, su questo. Non convocate una conferenza stampa in un posto che si chiama Four Seasons, ma a caso. Ciò che viene contato conta, e quindi quello che c'è e non c'è può modificare effettivamente. Poi ho eliminato slide così per divertimento, non volevo annoiarvi con troppe slide, no, infatti non ve le voglio far vedere tutte. Vi faccio perché non le ho rese visibili, scusate. Sì, qua non volevo fare un affondo troppo sul genere, però ecco, il fatto di non avere appunto, di non definire le cose, cioè nella definizione di dati che abbiamo messo prima c'era il nominare, trovare il nome, trovare la definizione comune, mettersi d'accordo, senza il nome non posso nemmeno contare, quindi l'assenza di banche dati istituzionali fa sì che quel fenomeno poi si presta a interpretazione, ed è proprio quello che dice il Ministero dell'Interno nel suo monitoraggio: non usiamo questa parola perché è un vocabolario politico e si presta interpretazione, allora non lo conto. E quindi ogni volta che si parla di femminicidio sui media o da parte degli attivisti, ci sono in qualche modo proteste, ci sono richieste di smentite sui numeri, perché non esiste una banca dati ufficiale. Il lavoro che viene fatto, quindi c'è questo contrasto, diciamo, tra i lavori, cioè i conti, le misurazioni che vengono fatte a livello istituzionale e quello che fa l'attivismo. Per alcuni fenomeni è difficile che ci sia una consistenza tra i due mondi, cioè il potere, chi ha il potere non avrà mai interesse a raccogliere i dati così come lo fa l'attivismo. Sia per lo scopo sia per le modalità. Prima parlavamo dei fermi della polizia, per esempio ci sono in Europa 13 paesi che forniscono questi dati, cioè su persone morte dopo un'operazione delle forze dell'ordine. L'Italia non è tra questi 13 paesi. Allora il giornalista Luigi Mastrodonato ha deciso di creare una mappa con tutte le storie. A che cosa serve la mappa? Serve a vedere che è un fenomeno capillare, come vedete, adesso non si è ancora caricata, ma lo potete vedere in questo modo. Serve già a creare un piccolo archivio, appunto, di storie. Questo è stato creato sia da articoli di giornale, sia con associazioni che si occupano di questi temi, e andare a vedere chi sono le persone fermate. Ci sono persone, per esempio, con disabilità mentale, quindi anche qua di nuovo lo stigma, no? Persone con problemi mentali che si pensano come violente e pericolose sono quelle che subiscono più violenza, tra l'altro. Quindi storie. C'è un problema in questa mappa che io intravedo, cioè il fatto che usa comunque come base dati Google. Ma non solo, lui non è partito da un archivio, per esempio, quindi io ho provato a estrarre i dati perché ho detto, ma tu hai delle idee su chi sono, no, non li ho contati, io ho messo solo le storie così, ok, però mettiamoli in un formato tabellare, che almeno, e dalla tabella facciamo la mappa, e lui invece è partito dalla mappa, però in realtà dal punto di vista non ha usato OpenStreetMap, dal punto di vista così dell'idea del far emergere la storia sono 65 casi. Lui ha voluto far vedere che questi casi esistono, dipende sempre dagli obiettivi, eh. Poi io l'ho voluto fare perché è arrivata la sentenza sul caso Rami e quindi ho voluto pubblicarla anche se non ero pronto, ma voglio elaborare, fare, c'è questa un po' di diatriba tra l'attività della come dire, dell'attivista che dice io lo faccio in questo modo, paura che poi il dato venga preso da altri. C'è per esempio un lavoro che fa la Casa delle Donne di Bologna sui femminicidi dal 2005, raccoglie dati sui femminicidi, ma non mette i dati in un formato tabellare, i PDF sono quasi impossibili da rintracciare, usano la parola femicidio e non femminicidio, quindi se non lo sai non lo troverai mai indicizzato. Noi abbiamo discusso con la mia associazione, facciamo, e c'è in qualche modo una sorta di come dire, un timore che poi il dato venga usato per altro. Quelle sono storie che loro hanno raccolto. Dal punto di vista, dopo aver letto il libro Counting Feminicide di Catherine D'Ignazio e tutto l'approccio del femminismo dei dati, in qualche modo bisogna anche prendere in considerazione che la posizione, no, dell'attivismo è anche quello che dice sì, ma poi questo dato, dal momento che non c'è nelle istituzioni, che cosa non vogliamo che venga estrapolato e utilizzato per altro? È sempre, c'è un po' un dualismo, no, di posizioni su questo. Qual è quindi l'approccio del femminismo dei dati? Appunto non riguarda solo il genere e le donne, ma riguarda il potere, appunto chi ce l'ha e chi no. L'altra cosa, questo per esempio è super attuale, questo grafico sempre fatto da Mona Chalabi, le persone transgender sono più, è più probabile che vadano a fare militare, subiscano violenze sessuali, abbiano un reddito inferiore a $10,000, subiscano molestie da parte della polizia e sperimentino il suicidio. No, quindi questi sono dati che raccontano tutte storie diverse, no, da quelle, penso alla sentenza UK, no, non vogliamo le persone trans nei bagni. questo è per partire dalla base, no, su cui si su cui lavorano le autrici di data feminism. Le oppressioni della società non agiscono in modo indipendente, ma sono interconnesse. Una persona trans, disabile, avrà, subirà più discriminazioni di una, è nera, magari, di una persona trans, bianca, ricca, che è con posizioni di potere. Il fatto è che, appunto, il discorso che noi leggiamo ovunque sui dati è quello, no, del dato che ci salva. Tanti dati ci porteranno ad avere soluzioni, prevederemo come andrà il mondo, prevederemo epidemie, non è successo, i dati sono un nuovo petrolio, e questo chi lo dice? Chi ha il potere, no? CEO dell'azienda della Silicon Valley, tech bro, come lo corregge sempre, non i pro ma i bro di Trump. E invece le comunità marginalizzate scrivono libri da anni e dicono: no, guardate che i dati sono uno strumento della solita oppressione da parte del potere, non è che, non è niente di diverso. Tra l'altro questo sta per essere tradotto in italiano, algoritmi dell'oppressione, e quindi sono tutte delle voci marginalizzate che dicono: guardate che i dati dobbiamo guardarli in un modo diverso. E le autrici di Data Feminism, tra l'altro, hanno messo, il libro è in open access sul sito dell'MIT, di MIT Press, quindi potete andarvi a scaricare capitolo per capitolo se vi interessa. È molto interessante, secondo me, per chi lavora con i dati, cioè non è un libro super divulgativo, ma per chi è molto, molto bello da leggere, però interessa molto chi ha in qualche modo a che fare col tema dei dati. E questi sono i 7 principi che loro identificano. Esamina il potere, cosa vuol dire? Guarda chi ha in mano il potere di raccogliere dati, di produrre tecnologia, perché nei secoli hanno escluso persone che non fossero persone educate, bianche, di sesso maschile, educate nel senso di alto livello di istruzione. Ne parlano molto bene Sabina Leonelli e Anne Beaulieu in Data in Society, facendo vedere come la tecnica e la tecnologia viene messa, diciamo, a prevalere sopra il sapere locale. No, andiamo a vedere la distruzione delle foreste, degli habitat con i droni. Ok, quindi vuol dire che tu devi far arrivare in certi posti un esperto che non ne sa niente del luogo, ma ne sa della tecnologia. Che il dato visto dall'alto non ti dice però quello che succede sotto, e che magari osservare, non so, le foglie, la distribuzione di certa vegetazione, di animali, quindi le persone che vivono in certi luoghi lo sanno, viene relegata come al sapere locale. No, quello è sapere scientifico comunque. Neanche il modo in cui si identifica, no, questo tipo di informazione. Prodotto una tecnologia che rispecchia una società privilegiata, quindi il modo in cui noi raccogliamo i dati continua a mantenere le persone ai margini. Chiediamoci chi ha raccolto questi dati, chi è rimasto fuori dal processo di raccolta, chi ha beneficiato di questi dati, chi è rimasto discriminato e per quali obiettivi sono stati raccolti. Non è che ogni raccolta dato, non è che avere i dati su certe persone, tra l'altro, non è discriminante. Questo è un'opera d'arte fatta da Mimi Unoa, una data artist, che ha creato degli archivi, degli schedari di dati che non esistono. Si possono spulciare, c'è anche la versione online, e ci si può chiedere perché non esistono questi dati, perché non sono mai stati prodotti. Sfida il potere. Una volta che hai capito che avere i dati, produrre i dati è una questione di potere, una questione economica, per esempio anche finanziamenti, agisci sovvertendo un pensiero di anni e anni di cultura oppressiva nei confronti delle comunità marginalizzate. Questo è un esempio di controdati italiano, la mappa di obiezione respinta, perché il potere non ci darà mai questo tipo di granularità nella mappa in cui vado a vedere ospedale per ospedale quanti medici obiettori ci sono, come mi sono trovata, qual è stato l'approccio umano delle persone. Guardate che questo tipo di mappa, per esempio, pensiamo alla salute riproduttiva. Mi è capitato, un'amica ha avuto un aborto spontaneo e mi ha detto in quale struttura sarebbe stata poi accolta per andare a prendere, appunto, per andare a fare l'espulsione. Sono andata a vedere se quella struttura trattava bene le persone che avevano scelto di fare un'interruzione volontaria, perché ovviamente incide anche, no, sull'approccio. Ho trovato per fortuna un pallino verde, quindi non un pallino rosso, dove l'esperienza era molto positiva, una descrizione molto accogliente, no? E lei mi ha confermato che effettivamente è stata, pur, insomma, per lei nel dolore, insomma, un'esperienza molto positiva. Quindi è questo servizio pubblico, cioè qualcosa che non fa il potere, questo è il controdato. E sono tantissimi gli esempi di questo tipo, già quella mappa di Luigi Mastrodonato che vi ho fatto vedere prima, ha il lavoro, no, che fa la mia associazione, che fa l'associazione Period Think Tank, che è un'associazione femminista, che fa gli accesso agli atti per avere dati e chiede di pubblicarli, o se non vengono pubblicati li libera autonomamente. Importante per esempio il fatto, perché io prima dicevo il problema di Google Maps rispetto a questo invece che usa OpenStreetMap, è che in realtà la piattaforma di OpenStreetMap, al di là del fatto che la mappa sembra uguale e diciamo sì, il modo in cui tu puoi tenere la scheda apparentemente uguale, la verità è che la scheda è completamente programmabile, cioè ogni singolo campo della scheda, tu puoi metterci anche l'indirizzo internet della ASL, o puoi addirittura farlo parlare con l'app dell'ASL, ok? Se le API dell'ASL sono pubbliche, ma non solo. Tu puoi permettere a terze parti di costruire un'applicazione su questo dato. Cioè questa che adesso è magari una mappa in cui uno deve avere un indirizzo, può diventare un giorno un'app del tuo telefono. E quindi se tu hai un problema di andare a vedere in che struttura puoi fare certe cose, essere accolto, eccetera, invece di essere così tra di noi un bel dibattito accademico sugli open data, cioè che se una persona che ha bisogno, è molto più facile avere accesso a un'app, chiaramente se fatta in un certo modo, perché tutta quella tecnologia che sta lì è open, cioè, ok, ed è esportabile verso terze parti, mentre Google ti dice le regole sue, e soprattutto quelle regole riflettono un interesse privato di Google, cioè non è beneficenza il fatto che Google ti permetta di fare mind maps. Ti fa My Maps perché poi tu entri nel grande ecosistema di AdWords e di AdSense anche in programma. E quindi contribuisci al loro modello economico. Qui non stai con io, è un servizio pubblico, come dicevo. Sì. Non a caso le esercitazioni che faremo sulle mappe, le faremo su questi. Ma mi è capitato di andare a viaggiare in Senegal, Burkina, e conoscere le comunità di mappers, di open street mappers, perché Google non ha interessi commerciali a mappare certe zone del mondo. Quando ci fu il terremoto da Haiti, usando le mappe di Google tu non riuscivi neanche a portare gli aiuti, perché non erano neanche le strade per portare gli aiuti. E per fortuna ci fu un grosso progetto volontario su OpenStreetMap. Quindi i volontari andavano in giro a mappare. Volontari che mappavano tutte le vie di comunicazione, e grazie a quello, anche se un po' in ritardo, però si riuscì a portare gli aiuti anche a Empatia e personificazione, questo è è un principio che interessa molto chi lavora con le visualizzazioni di dati, e loro dicono dal momento che ci hanno sempre insegnato che il dato è sinonimo di oggettività, neutralità, rigore, anche il modo in cui si insegna a rappresentare il dato deve essere, no, minimalista, preciso, perché così tu vedi un'immagine che vale più di 1000 parole, quello freddo, informazione che in realtà loro dicono no, perché il dato è soggettivo e tu inganni, cioè col fatto di avere raccontare che la rappresentazione minimalista è oggettiva e l'altra non lo è, sta ingannando. Allora usiamo empatia, personificazione per parlare di temi che non possono lasciarci freddi, indifferenti. Mona Chalabi per esempio usa il tratto disegnato perché dice, io non voglio dare, intanto parlo di temi sociali, io non voglio mettere, non so, parlo di violenza sulle donne, metto dentro delle colonne fredde, stupri, morti, no, questo non lo posso fare. Il tratto disegnato avvicina anche le persone che non ne sanno niente di quella materia, che pensano di non saper leggere un grafico, e io aiuto in qualche modo a entrare nell'argomento. Federica Fragapane è anche una designer italiana, e lei usa tra l'altro Mona Chalabi nelle sue rappresentazioni, usa comunque, crea grafici che sono riconoscibili, grafico a barre, grafico a linee, nel piano cartesiano. Lei usa altri tipi di metafore, però si capisce chiaramente, cioè abbiamo una percezione, è comunque rigoroso, misurato, una persona per chilometro quadrato, ma vediamo che cosa vuol dire, riusciamo in qualche modo a incarnare il senso di soffocamento, no? Che si vede attraverso questa figura. E non è meno efficace o comunque meno anche un grafico che ci fa vedere la barra che aumenta o diminuisce delle persone per chilometro quadrato, non è neutro. E ogni rappresentazione è una scelta, il modo in cui lo rappresento è una scelta. ripensa le strutture binarie e gerarchiche, un po' questo l'abbiamo anche visto prima, no? Con l'assenza, il fatto di avere abbiamo statistiche raccolte in modo binario, questo succede, è molto difficile superare il binarismo, per esempio anche quando si fanno i bilanci di genere nelle aziende, nelle università, e la struttura attuale della società si basa su questo. Molti gruppi non sono visibili nei dati perché non vengono contati. Bisogna chiedersi chi manca da questi dati e perché. Questa mappa che ha fatto il Guardian, questa era il 2016, interessante che loro l'abbiano fatta scegliendo di mettere anche persone non rappresentate, cioè non è che se non ci sono non esistono nella società. Allora io metto la possibilità di andare a vedere quante sono le persone trans non binarie nel congresso degli Stati Uniti e il risultato è zero, cioè quel numero ha valore, perché altrimenti se io penso alla società e appunto penso alla raccolta dati come binaria, non mi viene in mente neanche di andare a cercarlo quel dato. Considera il contesto, avere dati senza conoscere le condizioni sociali, culturali, storiche in cui i dati sono stati creati e come si devono leggere è dannoso, perché appunto i numeri non parlano da soli. Il modo in cui io racconto le uccisioni, i morti a Gaza, non so se avete letto la polemica che c'è in questo momento sulla Triennale a Milano, dove viene esposto un lavoro interattivo sui dati fatti da un giornalista, un data journalist italiano che lavora all'Economist, perché non viene usata la parola palestinesi uccisi, ma viene detto palestinesi morti a causa della guerra, quindi non viene usato genocidio, non viene usata la parola Israele, una visualizzazione immersiva nel contesto della guerra a partire dal 7 ottobre, tra l'altro, quindi non prima. E queste sono scelte, cioè si porta, no? Il rischio è portare a vedere le persone qualcosa e viene detto guarda cosa dice il dato, cosa dice la realtà. Il contesto però qual è? In questo ho trovato invece, secondo me, molto efficace un lavoro fatto da Reuters ultimamente. Vediamo se è così. Reuters Girls. Sì. Molto, molto bello, perché loro partono da, come potete intuire, anche se non vediamo ancora niente, dalla storia di un ragazzino di 13 anni, quindi mi fanno, in qualche modo, cioè, mi danno un contesto molto forte, cioè non è che partono in generale, questo è il grafico, bam, i morti sono questi. 13 anni, la sua famiglia vicina sono tutti stati uccisi, il padre, la madre, la sorella, l'altra sorella e il fratello. Quindi Reuters, non è l'attivista dei dati. Ci sono più di 50.000 persone che sono state uccise secondo le autorità palestinesi nella campagna di Israele da ottobre 2023. Israele dice che questi numeri non distinguono tra combattenti e civili, non ci si bisogna fidare, e secondo loro sono 20.000 i combattenti di Hamas uccisi. E loro però poi vanno bene nel dettaglio e intervistano persone dell'ONU che dicono no, i numeri sono affidabili, eccetera. Però è interessante perché qua partono una storia di violenza, cioè non è che è buttato lì, Israele ha reagito al 7 ottobre, fine. Soprattutto hanno dato nomi, foto, storie, cioè quello che aveva fatto il New York Times con l'inchiesta del 7 ottobre sugli ostaggi, sì. Finalmente viene fatto anche. No, questo è, l'ho visto ieri, però questo è un lavoro bellissimo, dal 2006, quindi contesto, ci metto il contesto dentro, non ti sto dicendo, guarda, cosa sono, mi sono svegliato ieri, è successo questo, guardate che lavoro. A me non è che piace... quando si parla di raccontare i morti è veramente molto difficile, difficilissimo trovare il modo di fare questo tipo di lavori, visualizzazioni. Col Covid ero stata molto critica con quasi tutti, così mi ero presa, ho criticato Washington Post, New York Times, anche Reuters. Questo secondo me è un lavoro fatto molto bene. Denamero Palestinski far outweighs Israelis. Cioè questa è un'immagine, no? Che è molto indicativa. Poi si torna, scusate un po' lento, sulla storia singola delle famiglie, ma l'altra cosa molto interessante che fanno sotto loro Vanno poi nel dettaglio chi sono queste persone uccise, adulti, bambini, 15.000 bambini, 34.000 adulti, donne, uomini e le varie età. E dice, torniamo alla storia di Mohammed. Questi dati rispecchiano la storia singola. Se noi andiamo a prendere l'età dei familiari, siamo di nuovo qua, torniamo al contesto. Quindi siamo, no, è diverso che mettere un bollettino, che mettere il grafico come vi ho fatto vedere prima nelle slide. Quindi siamo un po' di nuovo tra empatia, personificazione, ma considerare il contesto. Voilà. Prospettiva pluralista. Torniamo appunto a forme di conoscenza indigena locale basata sull'esperienza, non solo arriva il tecnico, arriva la tecnologia. C'è un caso molto famoso nell'ambito umanitario della cooperazione di quando si voleva andare a osservare, perché anche le organizzazioni umanitarie usano i dati, a osservare i movimenti delle persone che si spostavano nei vari campi profughi tra Kenya e Etiopia. Non si riusciva a prevedere in qualche modo questi spostamenti. Alla fine si è scoperto che un dato rilevante per andare a identificare se una popolazione si stava spostando o meno era il prezzo delle capre. Secondo voi perché? Andare a osservare il prezzo delle capre nei mercati locali. Le vendevano quando dovevano spostarsi e arrivavano e le compravano, quindi quel prezzo identificava l'arrivo. Quindi un dato, considerare il contesto, ci serve andare a vedere qual è il dato giusto che devo guardare. Questo è un caso che le autrici di Data Feminism mettono nel loro libro, un lavoro sugli sfratti, Anti-Eviction Mapping Project, un lavoro dal basso anche qua, e loro dicono, intanto questi dati non li potete usare se non ci chiedete il permesso, non sono dati, noi non li mettiamo open. Sono tutte scelte, io non le capivo all'inizio, però bisogna andarsi a leggere le testimonianze, cioè perché viene fatto, perché... arriva anche il giornalista, li prende, questa è una cosa che mi dicevano appunto persone che raccolgono i dati sui femminicidi, prendono 115 femminicidi, cioè per fare la notizia, no? Senza la contestualizzazione. Non si apre, ma ve la faccio vedere da qua, va bene lo stesso. Infatti dice, please do not use any of these stories for your own work prima di controllare con noi. Viene a chiedercelo prima, non prenderle da solo perché sono storie che ci sono state date, donate da ogni persona. E le autrici dicono questa mappa è inutilizzabile, no? Non è che riporta dei dati su cui posso fare analisi, ma sono il valore e la storia, è quello che mi raccontano, no? Il vissuto di ogni persona rispetto a questi sfratti. C'è un altro caso che loro mettono molto bello di una mappa del Canada riscritta con i nomi dei luoghi con le lingue indigene. Quella mappa non si può usare, non è replicabile, non è riproducibile se non con il permesso, perché anche il nome di appartenenza di un luogo dice qualcosa della cultura di quelle persone, quindi non, anche loro hanno timore che venga usato a livello commerciale. Vieni, no, nel villaggio di nome indigeno, no, quel nome è nostro, ci avete tolto tutto, lo vogliamo tenere noi. E questo mette un po' in crisi, no, anche la nostra, quando ho fatto la newsletter sulla cultura della apertura, togliamo il copyright, togliamo tutto. Che cosa? Il movimento delle persone indigene, il movimento della data sovereignty, della sovranità del dato, parla di consenso, cioè è il rischio, no, con il copy, come si chiama, i commons che danno totale libertà. Noi siamo stati, noi, ma parlo per i popoli oppressi, depredati di tutto. Non è che corriamo questo stesso rischio se noi lasciamo libero, e quindi in questo momento storico secondo me ha senso che ci sia una discussione e che non sia visto come l'unico modo per fare le cose. Ultimo principio, rende visibile il lavoro. Loro dicono, il lavoro della scienza dei dati spesso viene presentato, no, come opera di il grande genio, guarda questa applicazione, Sam Altman, questo, quest'altro, Elon Musk. Ma no, non è così, è il lavoro di molte mani. Senza le etichettatrici, le data workers che hanno creato, che hanno strutturato i database per far funzionare le Tesla, non potrebbero andare avanti, ed è un lavoro fatto da migliaia di persone. Questo lavoro, questa mappatura Anatomy of an AI System, l'ha fatta Kate Crawford, dove fa vedere tutto il lavoro a proposito di viaggio del dato che c'è per la produzione di quello che esce da Amazon Echo, quindi da Alexa, estrazione di materie prime, lavoro di software engineering, etichettatura dei dati e il singolo, no? la macchinetta che forse abbiamo a casa. Qua torniamo all'umano dietro al dato, con un manifesto disegnato da Giorgia Lupi, information designer italiana, che lei ha provato a eliminare appunto delle parole che noi associamo alla parola dati per cambiare il linguaggio con cui parliamo dei dati. I dati infallibili, i dati imparziali, descrittivi, predittivi, big data, i dati ti fanno risparmiare tempo. Lei elimina tutto e appunto mette, diciamo, la parola quasi contraria. I dati possono essere fallibili, non ci fanno risparmiare tempo, dobbiamo trascorrere tempo con i dati. Un altro lavoro interessante su questo, un bel libro, è Living in Data, Jeb Thorpe, anche lui un data artist, è quello che ha creato l'algoritmo con cui è stato creato il memoriale delle vittime dell'11 settembre, dove sono stati scritti i nomi delle vittime. Perché serviva un algoritmo? Perché non è una singola parete con i nomi, ma sono disposti appunto su insomma, in posti diversi, e le persone, familiari delle vittime, avevano fatto questa richiesta che le persone fossero, i nomi fossero messi vicini a persone loro conosciute o amiche. Era una richiesta da parte dei familiari delle vittime. Cosa fai? Non ascolti la richiesta? Quindi l'amministrazione di New York aveva fatto una specie di gara pubblica e aveva partecipato lui, singolo, e diverse società. Arrivano al tavolo della presentazione dei lavori e le società dicono: ma sei sicuro che vuoi presentare? Cioè, guarda che abbiamo team, 20 ingegneri che ci hanno lavorato, abbiamo un'accuratezza del 90% sul progetto che abbiamo sviluppato noi. E fa: guarda, io ce l'ho, non ricordo se è del 95 o del 96, quindi se permettete la presento. Lui che cosa aveva fatto? Aveva passato tempo con quei dati, si era letto tutte le storie, aveva cercato di... Ovviamente c'erano anche persone che non avevano amici all'interno delle torri, cioè c'era chi era andato lì per lavorare, per addette le pulizie, però aveva cercato in qualche modo di mettere, no, di trovare un filo rosso che metteva insieme le varie persone, e poi è stato appunto utilizzato il suo algoritmo per definire come inserire i nomi. I dati li pensiamo come oggettivi neutrali, ma in realtà non è così, perché le risposte che noi otteniamo ai dati dipendono dal nostro punto di vista, l'abbiamo detto anche prima, in tutte le fonti, cioè in tutti gli step del ciclo di vita del dato, dal finanziamento, dalle risorse che abbiamo, dai nostri obiettivi, da come disegniamo il progetto di produzione del dato, gli strumenti che abbiamo per raccoglierli, l'analisi, l'interpretazione, e poi ovviamente come li distribuiamo e li comunichiamo. Ricordatevi anche quello che vi ho raccontato prima sulle persone disabili, no? Che domande stiamo includendo nei nostri questionari, nelle nostre ricerche. Questa geografa femminista dice che in paesi poveri sembra che chiediamo 6 volte al giorno che contraccezione usano le donne, ma non se hanno accesso all'aborto, che sport amano giocare. Quindi il modo in cui noi raccogliamo dati su certe popolazioni le vediamo sempre in un certo modo, ma non in un altro. Immaginiamoci una riunione di redazione la mattina nella redazione di Libero. No, io mi immagino un dialogo del tipo: il direttore che chiama le persone che fanno le infografiche, dicono: fammi qui un'infografica che dimostra che le zone dove ci sono più migranti sono quelle dove c'è più criminalità. E i dati per riuscire a realizzare una infografica come questa ci sono. Certo. Cioè, è facilissimo trovare il dato che già ha in testa, cioè in relazione alla storia che vuole raccontare, no? Questo è l'esatto contrario del data journalism, chiediamolo magari. Dovrebbe. Sì, vabbè, non parto per dimostrare qualcosa intanto, ma vado a cerco di fare domande ai dati e magari mi portano a scoprire il contrario. Dopo. Assolutamente. Scopri dopo, esatto, non ce l'hai già in testa prima. E ovviamente anche le domande che faccio, no, come giornalista dei dati sono situate, cioè il mio punto di vista è diverso da quello di una persona che anche decide di occuparsi di altre tematiche, per esempio. E dal momento che la componente di scelta contenuta nel processo di creazione del dato è fondamentale, dicevamo prima, solo ciò che viene misurato conta, se non c'è rischia di diventare invisibile. E siamo alla fine. Grazie. Okay, così abbiamo tempo di domande. In Svizzera, quindi ha raccolto un po' delle API dei nostri. Non volevano fare pausa pranzo gli studenti svizzeri? No. Io veramente la vorrei fare. Dietro lo riguardo, no, perché... lasciarla alla sua vita fuori da queste mura. Se c'è qualche domanda per Donata, bene, sono venute in mente due o tre, ma le voglio lasciare fuori. Io avevo seguito l'anno scorso un corso su TicoLab qui in generale, io non ricordo il nome, se non erro, e cioè, aveva citato anche i libri su Data Fairing. Ok. E niente, volevo chiederle, mi sono sfuggiti alcuni nomi di siti che ci ho fatto vedere, come quello sulle storie mappate sul sito. Quale? Sulla violenza? Sulla violenza mentale. No. Ma possiamo per caso magari tenere queste slide e mettere su? Certo, sì, sì. Qui c'hanno tutti i riferimenti. Questa era mala polizia. Sì. Mala polizia. Ok. Che adesso attenzione, dal punto di vista del giornalista che ha fatto questo lavoro, è esattamente ciò di cui lui aveva bisogno, e va benissimo, ho fatto solo una. No, ma hai fatto bene, sì, sì. Del problema di cioè Google domani potrebbe decidere, ha già deciso di togliere gli elenchi mappati, l'ho fatto per le meravigliose mappe dei bar che non erano ancora diventati fighetti, non so se te lo ricordi, sì, sì, ed è scomparso, no? Quindi adesso io devo per forza usare My Maps, che però c'ha grosse limitazioni e tra l'altro non è indicizzato come molti altri contenuti che sono all'interno dell'ecosistema di Google, cioè anche il modo in cui il modello di ricerca dà o meno rilevanza a quello che sta in tutto il mondo di Alphabet. Per esempio non si parla con Google Arts and Culture, cioè non è che noi possiamo creare per esempio un Google Experiment su Arts and Culture basato sulle mind map, no, le mind map è roba per noi che giochiamo con i punteruoli. Invece potenzialmente noi potremmo benissimo fare un experiment su Google Arts and Culture usando le mappe di OpenStreetMap, finché loro non si accorgono, ma questo usano OpenStreetMap, allora ti bannano. E vedete che c'è sempre un po' di guerriglia in tutto quello che facciamo. Altre domande per Donata? Sì. Vai. No, più che altro qualche tempo fa mi ricordo che avevo visto questa notizia su social, dove c'era notizia. Questo post che diceva le coppie hanno più possibilità economiche rispetto ai singoli. E io leggevo questa notizia e dico, ma a che scopo pubblicare una roba del genere? Che cosa dovrebbe andare a stimolare poi all'interno? Cioè, cosa stimola chi all'utente a fare queste cose? A una, cioè la paura della solitudine. E quindi la mia domanda è, perché fai questo tipo di post? Per stimolare il clamore, per... Cioè, come aveva preso il dato? Non me lo ricordo perché è passato tanto tempo, però c'erano proprio dei dati, si evince che le coppie, chi sta in coppia... Però c'è, cioè, sì, è un dato che anch'io ho ritrovato. Mi sembra che parta proprio anche da Istat, ma lì più a identificare, dipende come lo metto nel cornice, lo metto poi il dato, nel senso che un conto è dire le persone single o i nuclei con una sola persona, i nuclei familiari con una sola persona vivono in condizioni di povertà molto più che le coppie. Quindi lì andare a vedere qual è la situazione. Tra l'altro anche qua, sul diritto alla casa non si hanno i dati disaggregati per genere. Non ci sono il dato per sapere quante donne sono in attesa della casa popolare. Si sa che sono soprattutto nuclei monogenitoriali, l'80% è composto da donne, quindi si fanno i due. Dipende dallo scopo, un po' è per dire lo Stato italiano, così com'è, privilegia e dà magari anche sovvenzioni alle coppie che vogliono farsi un mutuo, che quindi la struttura italiana si basa sulla famiglia tradizionale, quindi può essere, dipende dallo scopo che si ha, può essere quello sulla distribuzione che fa delle anche single che costano di più, che costano di più, l'affitto, cioè, perché può essere anche una public policy, ma anche semplicemente è il mercato che punisce le persone single. Sì, cioè, ho pensato questo, cioè come dire, sei single, peggio per te. Allora infatti se il frame è quello il dato si può usare in due modi, o per dare la colpa alle persone oppure per andare a vedere la struttura sistemica e dire perché è così la situazione, di chi è la colpa, cioè come è strutturata la società, questo su tutto. L'approccio del femminismo dei dati mi ha un po' illuminato su questo, perché non è che va appunto a dire la colpa è del singolo, e di no, guardiamo nell'insieme. Certe modalità, certe strutture sono dentro, no? la società, non è la persona che raccoglie il dato o che fa la visualizzazione. È più complesso della... Si può anche capitare una famiglia dove una figlia che arriva a casa con i suoi noodles e si rimette nel frigorifero. C'è un'altra domanda. Sì. Come fa il singolo, cioè tipo me, proprio un esempio vivido, a far, cioè dare rilevanza a un determinato argomento per metterlo in statistica? Faccio proprio un esempio per far capire. Le persone di SA. Le persone di SA non vengono considerate disabili, no? Tu dici, giustamente, ma in realtà è una sfortuna proprio gravissima, soprattutto per il livello di istruzione. Sapete quanti SA sono laureati? Meno del 2%. Di questo 2%, meno del 15% del 2% sono laureati in comunicazione e lettere, quindi proprio ritengo, e soprattutto più si va avanti, più si diminuiscono gli aiuti. Alle elementari adesso vengono tantissimi aiuti, ma per quanto riguarda l'università possiamo dire zero. Non ci sono iniziative per quanto riguarda rendere gratuito un percorso universitario, non ci sono iniziative per rendere gratuito tipo corso di inglese. L'inglese è la lingua madre per, cioè, la maggior parte di noi dovrebbe essere universale, ma per quanto riguarda i DHD e DSA l'inglese non è importante. Come si fa? Cioè, ci si mette insieme con la propria categoria, si fa lavoro, un po' di lobby. Le persone con disabilità, io vedo dei cambiamenti. Uno, perché loro le portano davanti ai giornalisti. Il giornalista chiama l'Istat e dice: non avete fatto quella tabella con la disabilità? Tutte le interviste che mi è capitato di fare è stata, alla fine l'avete messo nel questionario, la domanda sulla disabilità, l'avete messo voi centri antiviolenza? Una domanda che fai sempre, che fai, sono dal 2021 questo è il caso particolare sulla violenza di genere, e portandolo alla luce mano a mano qualcosa sta cambiando, non è che c'è la rivoluzione. Su questo tema, tra l'altro, l'ho visto spot in giro, cioè non mi dici cose nuove, anche sulla mancanza di dati. Una persona mi ha chiesto, stavo scegliendo la scuola superiore per il figlio, dice: non ci sono i dati invalsi separati? No. Quindi io non posso sapere il successo di quella scuola nel trattare. Un conto è dire sì, abbiamo delle misure per i DSA, sì, ma hanno impatto o no? Esattamente come diceva, sì, la rendicontazione, sì, noi abbiamo speso i fondi e sono, cioè, come li avete usati? Ha funzionato o non ha funzionato? Cioè, noi che facevamo cooperazione, quello era l'approccio base, devi andare a vedere l'impatto del tuo progetto, cioè mi sembrava la base, non lo è. Poi di SA che si sono laureati, purtroppo, cioè, c'è una mancanza proprio, e a me mi dà proprio una rabbia. Cioè, per esempio, parlando proprio della Sapienza, io sono entrata in queste cose dicendo che a me non piace, cioè sono già detto tutto quanto per proprio questi motivi. Danno corsi gratuiti per gli SA, però non ti mettono a disposizione per studiare, nel senso, nel corso non ci sono video registrazioni, non ci sono audi, e soprattutto se tu vuoi frequentare il corso ti mettono la persona vicino, proprio, quindi vieni proprio ghettizzato come se fossi una persona speciale, no? Qua ce l'hai scritto. E i master, che sono a pagamento e costano intorno dai 1.000 ai 5.000 euro, ma pure di più alti, proprio 10.000, anche se tu hai una disabilità o un DSA, li paghi, ma soprattutto DSA, cioè la Sapienza, già che ti dà un corso gratuito, tipo triennale e magistrale, è già tanto, ma l'altra università nemmeno questo. Quindi praticamente ci stanno dicendo, la maggior parte dei giovani adesso si possono laureare, ma i disabili, DSA ancora no, cioè almeno questo è... Io ho fatto proprio un progettino universitario su questo. però le statistiche che ho fatto io sono campate per aria, cioè non... Ma sai quante persone, quando mi è capitato di andare a parlare in università, ricercatori, ricercatrici, e mi venivano a dire, ma sai, noi abbiamo provato a raccogliere dati anche su gruppi marginalizzati, ma il professore ci dice, vabbè, non ci sono, non ce ne sono abbastanza di questi dati, quindi non farlo, il progetto, cioè escludile dal progetto. Sì. Quindi è un cane che si morde la coda, perché meno dati ci sono, meno vengono inclusi. E bisogna un po' o fare mappature dal basso, quindi provare dal basso, però in questo caso è difficile. Portare le istanze a un livello, diciamo, mediatico, e dal mediatico passare all'istituzionale. Disabled data, secondo me, vai un po' a vederti Fight the Stroke, anche se non è di essere specifico, però loro, per esempio nella questa discussione che abbiamo fatto martedì, loro hanno invitato anche una persona di Istat a parlare. Istat, quindi fare domande, giornalista, attivista con disabilità e terzo settore. Alla fine ci ha chiesto cosa chiedete a ognuno degli altri e che cosa vi impegnate a fare. Ma loro sono molto disponibili in realtà, cioè a volte si pensa che le istituzioni non vogliano. Esatto. E invece loro dicono, no, ma noi vogliamo i feedback, cioè c'è un po' questa barriera. Però non sono loro a prendere l'iniziativa. Loro dicono, sulla questione della privacy, cioè loro hanno ostacoli, lei ci raccontava, abbiamo ostacoli sulla questione della privacy, noi ogni volta che facciamo un questionario nuovo deve passare al garante, passano 2-3 anni, quindi figuriamoci, magari appunto adesso loro hanno recepito le istanze delle persone disabili, 2-3 anni, tra 2-3 anni potranno avviare, se continuano ad avere fondi per farlo, avvieranno l'indagine, cioè l'ultima... Sì, però quello che dicono, non c'è nemmeno disabili, capito? Cioè, facevo una... Cioè, sì, sì, sì. Non esistiamo, siamo una categoria proprio... Però siete tanti, cioè non è che sono, si parla di poche persone, quindi bisogna mettersi insieme. Allora, non era battere. Se non ci sono altre domande, visto che abbiamo raggiunto mezzogiorno, io ringrazierei Donata. Grazie a voi. Grazie. Attivando poi le slide.